Ella in quante guise m'assale il crudo fato, o sposo, o figlio, o mio destin spietato. Ecco Griselda e figlio, e concero un momento, t'uso questa pietà con mio periglio, e Verardo, o soave fortune d'amor mio, in te già di quest'alma bacio una parte, bacio immagine adorata del mio motivo, in un sol punto sento rallentarsi il ricor del mio tormento, e la provezzoso incaro. Basta, ancor un momento, non posso. Ahimè, la vita toglimi un cor, il vano. Che di cor si spietato, che nieghi ad una madre dolce amplesso. E dunque, chiero e stesso, donna proprio odioso, giungermi patria nome più caro. Io pietoso te lascio. Che stravaganza è questa? Ricuso il dono. Ingrata, in pena dell'usilio.